però scusi, onorevole Giro, torno a bomba sulla considerazione prima di Parenzo. Aspetti, mi faccia concludere. Sì. Lei è una valutazione di carattere giuridico, quindi io ritengo ancora adesso che il carcere non sia l'unica soluzione possibile per un ventenne comunque incensurato, incensurato, che è sottoposto adesso ad un'inchiesta e quindi sconterà la sua pena e naturalmente dovrà scontarla e dovrà in modo assolutamente trasparente farlo nel modi che ho capito. Allora permettiamo una cosa, un attimo, devo girare, altrimenti lei fa un monologo, un attimo solo. Questa mattina qui su Radio 24 durante la trasmissione del mattino l'avvocato del ragazzo ha detto che in realtà non si è trattato di un pugno ma di una manata. Lei condivide Certo, cambierebbe assolutamente. Ma lei condivide questa cosa qua? Non si è trattato di un pugno ma di una manata? Guardi, allora, questa questione non è stata esplicitata sulle agenzie, ma privatamente se ne sta discutendo. C'è un'interpretazione in corso dei filmati e ci sono alcune angolature del filmato, adesso si vedrà, l'avvocato è parte in causa. Beh, certo, ma lei concorda o no con questa cosa? Di una ma questo lo decideranno, non sono io che... La sua impressione, onorevole Giro, siccome si è occupato di questo caso... La mia impressione è che si debba valutare, io l'ho dichiarato anche questo nelle mie dichiarazioni, io sono molto preciso nelle mie dichiarazioni, sarò tranchant a volte, ma sono molto preciso e rigoroso, bisogna verificare cosa sia accaduto. D'accordo, c'è stata anche, ci sarebbe stata anche prima, provocazione? Dopo, ci sarebbe stata anche provocazione, come ci dicono alcuni. Naturalmente c'è stata provocazione, ma tutti questi elementi... Cioè c'è stata una provocazione, il ragazzo è stato provocato secondo lei? Ma certamente, ma è evidente nel filmato. Beh, insomma, non è troppo evidente, non è volo giro. Aspetta un attimo e concludo, questi elementi saranno inevitabilmente oggetto del processo. Se c'è stata provocazione, la posizione del ragazzo sarà una però lei ha detto il ragazzo è stato provocato, mi sembra che l'abbia detto esplicitamente. È chiaro che è stato provocato. Benissimo, no? Allora però la domanda sorge spontanea. Un attimo Parenzo, un attimo solo, devo chiudere, c'è la pubblicità, giro un attimo solo, lei capisce bene che ci sono delle esigenze di pubblicità, ma torno subito da lei dopo.